capito, ha travasato il vino oggi, Tonino, capito? Stava dando una mano a travasare il vino, nuovo. Che rimuovere le orecchie. sua MS. Cerchiamo, va. Paolo, dove è davanti? Se mi fa una chiamata, provo a vedere se lo sento. Vai. Aspetta, Luigi, se mi ascolti. Appa. Aspetta, Luigi, se mi ascolti. Lo copio, lo copio. Oh, Tonino. Mauro, lo sono io quello che sta modulando, e Tony, te lo so fare te, da chi te no, che caspita. Non la so fare te, sto preparando la budella, da un minuto sto preparandomi. Oh, Tony, sto facendo le cose, non mi posso muovere. Va bene, fatta una cosa, va bene, dopo. Adesso il barro non si fa nessuno, però dai io brillanti a tassa di negativo modulare. Blocco tutto. Sì, se la simile a stessa sono occuparenti, mi. Oh, Torino, sto facendo cosa, papà, sono male, sto venendo a fare. Sto venendo a fare. Troia. Giusto, troppo. Tanto non ci fa parlare, Torino, Giusto, Torino, te la cosa? Oh, mio, no. Faccio un po' di bianco, ce l'ho facendo cosa, non mi... Ciao! Vai, non sto girando, questa è budella, capito? No, ti sul 30. No. Asciuga, asciuga a rispondere, capito? Dai, datemi un attimo di bianco, riprendete voi. Poi come finisco di girarmi questa budella, riprendo qua, mi sciacquo le mani con l'acqua e riprendo a modulare, dai. Va bene, signor Luigi Vulcano. Attenzione, Natta, Natalino. Bene, e chi era l'altro amico che c'era sotto? Prof. Tonino stava travasando il vino nuovo oggi, allora non hai capito, stava travasando il vino nuovo, capito Robert? Sì. Chi è Mauro, sei tu? Ma chi è che stava chiamando Luigi? Mauro. E a Mauro, dimmi tutto. Dimmi tu, mi stavi chiamando, dimmi cosa c'è. Non lo so, io tanti nomi, anch'io io stavo travasando birra, lui vino e io birra. Anch'io un po' di confusione ce l'ho stasera, dai, mi state influenzando pure a me questo linguaggio di Tonino. E sto sbagliando nomi anche io, capito? No, lo sto sempre facendo cosa qua, dai, io ogni tanto entro così per Tonino, che se no Tonino poi si offende con me se non lo rispondo quando mi chiama, capito? E sto finendo di girarmi di queste budella qua perché ce l'ho in mezzo all'accetto, me sto sistemando, capito? Scusa Mauro, era Luca forse che stava scherzando, era Luca quello che stava scherzando, mio, allora hai capito Tony, era Luca, mi. Aspetta, Luigi, Luca, non sono che stiamo a fare. La potenza le sciate. Ma cosa sto arrivando, Tonino? Non ho capito ben niente, sei Tonino? Ma Tonino, sono Rossone, sono Rossone. L'altro Tonino, quando c'è l'altro Tonino in movimento, hai capito? Guardate, c'è Tonino da Usini, hai capito? E vi arrivate tutti e due forti, e sta parlando anche lui, se parlate assieme io non vi posso rispondere tutti assieme, capito? Torino. Sì. Ma lui sta arrivando quasi 9.35, chissà quando scende, Kit. Non mi dice. Dai, fatemi fare un po' di bianco, mi sto girando queste budella, se no per il dice già c'è da miri al contrario, Sono tutte le mani piene di d'accetto. Caro, divertiti. Cosa è chiaro qua? Luigi, scusa, Tony, quanto sta arrivato io a Usine? Quando sentite... Anche il burro, beh. Un attimo il coso, il fischio. Quando sentite, vabbè. Cos'è? No, ti ho chiesto, Tony, che segnale mi dai tu a me? Ma siccome ho detto... Ok, va. Perché non fischio? Un attimo il fischio, verso quale guarda la testa. Ho capito, però non mi ha risposto. Non mi ha risposto perché mi ha revocato, ma ascolta, ma come vogliamo sapere noi? In 2 o in 4? Vabbè, mi sono levato le generazioni. Primo, poi il secondo, adesso, vai a Robè. Ah, così. No, ti stavo chiedendo quanto sta arrivando di Santiago. Di Santiago, bello. Bello come il bianco. È bello, sia come radio, come Santiago. Tonino da Ordine, Radio Super 5, però l'altro che ha parlato, non vorrei sentire. Tonino da Ordine, come mi copi? Copiatemi a Roberto. 9.30, 9.40, sono segnali che a me non mi persona solo in lontano. Comunque, vedi quella cosa meno bene. Stazione Aquila, operatore Tonino, a Usi, via Montegra, al numero 8. Non dire niente, non si dicono queste cose, Tonino. No, ma io lo dico sempre. Io lo dico sempre. Io il mio indirizzo lo dico sempre. No? Perché sto pagando. Pago io il collo. Io sto pagando 12 euro all'anno. Non come il radioamatore che pagano 3,50 euro. E sembra. È la potenza che hanno loro. E c'è 400 watt. 400 watt in tutto fiolo. La vita mia e loro, certo radio, non vogliono, non possono entrare in 27. Un radio amatore in 27 non può entrare. E poi qualche ora, per esempio, un radio amatore e certe apparecchiature e faccia intervento. E io. Da parte mia, c'è qualche radioamatore che si sente proprio radioamatore come io ho seguito, io sono 40 mesi, 45 mesi e voi sapete quali, in frequenza deve usare un apparato normale, 40 canali. D'accordo, aspetta, facciamo riprendere anche l'altro amico, chi era? Mauro, tu eri? Chi c'è su canale 10? Avanti con la buonasera. Comunque quel Magnum ne dà più di 5 sicuramente, Tony, è vero? Il Magnum c'è solo una 5 watt di potenza, però visto hai in questo problema non interviene nessuno. Sia radio amatori e sia radio voci pubblici. Per quale motivo? E buh. Perso. E loro allora dicono, tu in quella frequenza non vuoi andare. E mi piace. Io dico una cosa, Roberto. Io ho avuto sempre apparecchiature sofisticate. In quale frequenza la gente può andare? Per quale motivo? Ascoltami bene in questo passaggio che ti faccio. E agli altri amici che stanno in agguato, guarda, che stanno sentendo, amico. La che non puoi andare. Fai passaggi. Moduli. Luca, ci sei ancora? Te lo mando anche a materiale, va bene. Perché mi risponde? Quando entro mi chiamano lì. Che se no? Fa una chiamata a Tony se c'è qualcuno, se no stiamo monopolizzando il canale. Luca, ci sei? Per il vostro paese. Poi, qualche CB, diciamo, se in un'altra base sicuramente cambia qualcosa a livello di linguaggio. Ma inoltre, vabbè, le voglio fare perché 078 e 0.5 si dice esploso che deve amministrare, capito? Però loro pagano, noi paghiamo 13 euro, loro pagano 75 euro. Pagano sempre il poco di loro. Però non è la sola, che c'è lo fare, ecco, potrebbe anche intervenire. Dai, non interessa intervenire, o che non c'è su questa banda. Ma certo, ma me li posso cercare io. Io li posso anche cercare, non bene. Problemi non ne ho, capito? Perché io reato non ne ho, capito? Tu vuoi accarci? Ciò che io sono cercato. Che avanti, come entrare su 10? Ma certa cosa, questa persona che è sempre CP, qualche cosa, la sua impressione. Roba, che sei? Cosa con lei? Ho detto a certe volte ai CP, erano maturi, le cose le fanno impressione. E io, ma non sta più uscendo poco fa, ho visto che hai mandato a portata e non si sentiva la voce. Ma io sto parlando, se mi stai ascoltando bene. Ma che microfono c'hai sotto? Radio 35. No, che microfono stai utilizzando? Ah, sono RM35. Ah, capo, allora stai uscendo la radio, è l'ultima, buona radio. E sono a 70 centimetri di distanza dal microfono, la vita mia. Poco fa c'era un CP, erano gli amatori che stavano in armatori e non nessuno risolve. Comunque qua vado, vabbè, faccio una ricerca. Vai, vai. Non trovo adesso. Non c'è nessuno. Ecco, però controllo. Santiago 1, Radio 1. Questi sono gli amici. Bene, Meda. Comunque vi ringrazio, E di che cosa? Non ti sento a quello. Evidentemente non mi ascolta, bro. Benario 1 non mi ascolta. Radio e gli amici e company, sono contento, va bene, tanto lo so grado, non c'è l'ascolto, e poi non ti lamentarti, ti sento parlare, ti metto a parlare, musicale, e ti dico che sono io, alzo la voce. Cazzo, hanno cambiato Buruse. Vabbè, così, tanto che basta questo momento a Dio, va. Vabbè, ma se non ce ne sono neanche per darle questo controllo, scusa, perché si arrabbia. Vabbè, così. Fate chiaro qua! Ma che ti stai dicendo? Paga. Tu lì. Oh, è giusto. Ehia. Se avessi saltato qua, se la puoi avvisticciare. No, lui è qua, non è qua. No. È l'uno, e a chi ne di no? No. Cazzo! Mi ha chiesto un controllo. Venga, Lu. E perché va dentro bevendomi una tazza di latte? Qua. Qua è. Ubriaco. La coca di là. La coca di là. Ridimo. Buongiorno, quanti due? No, la macchia è andata giù. Ma la dico che la ridendo, io gioco con il pundello. Arrivimmo? Arrivi a pacca, eh? Davvero? È chiaro qua, c'è, ci sono i cartellini, qua c'è il cartellino giallo e il cartellino rosso, il cartellino giallo messo, scritto in orizzontale, c'è scritto carrozzieri, chi è? Il giocatore dell'Atalanta. Dove sei l'Atalanta? Nell'Inter non credo, non l'ho mai sentito. Infatti, ha segnato Cruz e Suazo. L'ha giocato Suazo? Stai parlando in 40, cosa roba? Che gambe! Sei portante? E dove hai detto che la bunia? Perché ti bunia buono la musica, ha detto. Bunia buono la musica. Mattolino, vabbè. Allora, parla a 5 della vettura la portante. Eia, questo l'ho sentito io. Allora, ma non ci fa niente, no, c'è problema, Roberto, passa, vabbè, passo da te. Sì, un pochino, ma già sei incomprensibile. Sì, ma anche tu non è che passi bene, bene, bene, bene. Passi, ma hai disturbato. Sei alle 9.30, tu sei 9.35, Luca. Gappa, gappa, bene, veda. Io qua ho attenuato i segnali più... purtroppo devo fare così. Qua non arriva più adesso, eh. Non ricordo più, vabbè, riprendi tu, riprendi. Ecco, promemoria, promemoria. Col salame, le cucchiette di alimentari, che avevo fame, e adesso mi sono bevuta una scodella di latte. Io vabbè, no, metto un paio poco fa, basta, poi se ho fame già c'è qualcosa, c'è problema, al limite devo stare un panino. Se mi mangio una bella scodella di latte, ci mettono un flash e ci mettono una bella spianata in mezzo. Meia, io me l'ho mangiato con i biscotti. Franco ti sta facendo un panino col pomodori, che è buono, che sano, l'ho abbomato. E c'è la roba, ma ho detto mi faccio un panino. E un panino, ti raccampa. Allora, metti da campare, andrà bene, bene, veda, e beh, Robè, tu ti avevi detto una pizza, quanto pare, no? Ehi, poco fa ho finito. Certo, io non ce l'ho con me, sicuramente. Ce l'ho con me, che non gli ho fatto niente, poi che sono io che metto portante. Vabbè, tu e te già passate, gli altri li schiaccia tutti. Io l'ho fatto, Robè. Sì, però gli altri li schiaccia. Voi siete tutti e due 9.35, lui è 9.30. Boh, che provo ne ho portanti, dice, boh. Boh, boh. Mi ha detto un controllo, lui era accorto, mi stava bevendo il latte. E poi non c'era nessuno, veramente non c'era nessuno nel canale. Allora si è incazzato e ha detto così. Ma lo possiamo andare anche là, mi è acceso, no, non lasciamo più intatti là. Non credo che anche lì arrivi, No, quello non ce l'ha nessuno, ce l'abbiamo solo noi. E chi ce l'ha tirato? E chi? Chi è che è cazzato? Molto io stavolta la portante. Roba qua. Non intendi, cazzo è 9 più di 9. Perché? Mi sono spostato qua perché ho visto che si è spostato Franco con Luca, ho già spostarmi, c'era troppo casino, allora ci siamo spostati prima al 30, siccome al 30 non meglio mi evito i canali più alti, allora ci siamo passati qua all'1, diciamo io e Franco, poi è entrato Mauro, che era lì dalle parti di Porto Torres, e niente, poi sono entrati gli altri, è un troppo casino c'era all'1, comunque a Torino il controllo glielo ho dato. Ho detto 9:10 radio super 5, poi se mi ha sentito bene, se non mi ha sentito poi giù maledo. Ma è cotto? Va. Ehi, a... Non passa, Sì. Che non so cosa ha detto la Sì, ormai disturbato, non so se la sera a caso io passi. Sì, qua già passo, ero creppa. No, qua ha passato Tonino. Non so per quale motivo, va bene, non c'è problema. Mi senti da me, Claudio? Sì. Sì, Roberto, tu la passi. E tu passi, Roberto, passi, un po' disturbato ma passi. Vabbè signori, io vi saluto, divertitevi tra di voi, a me non mi piace niente cose. Ciao a tutti, buona serata e buona giornata per domani. Ciao Robè, ciao, ci sentiamo, buonanotte, alla prossima, ciao, vai te. Ciao Robè, buonanotte, da salutoni alle prossimine, ok, riprendi Clark. Evidentemente quando ha chiesto il controllo io non c'ero, mi ero già spostato a mangiare, se no gliel'avrei dato. No, non ci sono problemi. Non lo so, gappa, vabbè, dai, non c'è problema. Poi si dice, Pierpa, avevi disturbato la cosa, la, come si dice, la... Arrivo disturbato, vabbè. Se mi volete spostare devi andare al 10. Ci segue, vogliamo fare al 10, tanto vale spostarti al 10. Allora, i macchini, ragazzi. No, non c'era nessuno, però quando ha chiesto il controllo, la verità, erano tutti attenti, perché io ero seduta nel divano e stavo ascoltando e lo sentivo parlare da solo. Dovete capirlo. Ma neanche Gigi passa. Non ne avete colpa. Qua è 9:20 quasi, tu sei un pochino più alto, Peppa, Luca e Teresa, non ci sono problemi. A Luigi non lo sento per niente, Luigi. E a Claudio, dovete avere un po' di pazienza, dai, sono cose che la capisci tu, dai, Tonino non è di suo coso, però stasera forse stava travasando un vino e... qua, dai. Ehi, va bene, pare che ogni altra sabato e domenica è uscito, va bene. Siamo da zitto, altro che... Vabbè, ma non è il caso, detto, perché non è successo niente. Evidentemente quando ha chiamato non c'era nessuno, io non l'ho sentito, se non gli avrei dato il controllo. E lui chiamava uno all'altro, cioè con le mani impegnate, stavo girando quelle cose con l'accento e forse non le davano retta, si è accorto che c'è stato un altro caso. Ma lui ci passa, no? Che... No, qua sì. Che qua già passa lì. Sì, da noi più aperto di Luca, Luigi e vabbè, a Pierpaolo ce l'ho davanti, non c'è problema. Vabbè, ignoriamo, va, c'è problema. Però non è che si può andare avanti così, Ma io la faccio. No, a te ti crepa. Ma mi crepa, vabbè. Sì. A me mi crepa, guarda se mi crepa. Andiamo a salire a Ugini e fare il gioco che hanno fatto a Falcone, ragazzi, l'antenna e ti levo la macchina. Allora io voglio dire una cosa invece, io voglio telefonare i giovedì. Sì, Albi. Poi così che, per carità di Dio, scendi sul... Guarda che c'è 40, io. Non posso parlare qua, hai detto vorrei uno fra. Cazzo che rompimento di palle, raga. Spiegatevene. Ma l'indiano fra, tutti i dini. Ma questa camera me la appunto, ma per quello che c'è un bacio mi dà fastidio che non ascolto. Non c'è problema, non c'è problema, io me li faccio io. Voi? No, tu passi tranquillo da me, non ci sono problemi. Travagava. Cazzo, ma che gusto di vita non ti compriso? Vabbè, quando c'è la... Contanati. Sì. Voi, tu sei incazzato, tu. Vabbè, allora magari anche se controllo nessuno gliel'ha dato, io mi sono annotato a fare un panino. Fare un panino poi ho sentito che c'era questa portata. Sì, vabbè, non fa niente, dai. Cava cava. Va bene così. Ok. A te la dovevo mettere la portata, perché c'è che. Niente, perlomeno io non ti ho fatto niente. poi c'è qualcosa o qualcuno risolvi subito. Ma tanto mi fai nulla, tanto il vicino, caso il vicino, faccio quello che puoi fare, quello che ti pare ti piace. Allora ricordati, ora parliamo di Maria, io ti seguo, arrivo dove arrivi tu, forse vado anche oltre. Vai Franco, riprendi. Grazie. Dove chiedemi, ma a buffare però mi, no a dobbare, a buffare mi. Ti sabato lì, numero uno, nel canale uno siamo. Numero uno. Numero uno. Ah, dimmi un po' di vedere in conto questo me lo porta a chiave. Vittori. Vittori. Vittori. Vittori. Seguo a tutti. Seguo. ricevo, programma o programma. Riprendete da me, un chiaro. Non vorrete che sono fatti, fatti chiari, non siete lunga. Va bene a mia, va bene a Lopez. Ciao, passo e chiudo. Ti ricordi bene, ti ho dato il controllo. Certo, no, V10 radio Super 5. Poi non so chi è un tradatto. Poi, siccome nel canale 10 c'era un casino della Madonna, non si capiva più niente. Franco mi dava via e roba, no, però non sovramodulare gli altri, compreso te e quelli che c'erano più bassi. Ci siamo spostati sull'uno. Ma noi che ci siamo spostati per te, perché c'era troppo casino, per non parlarvi sopra. Tutto qua, K. Stasera, ma non fa niente, dai. Ma poi io conosco anche di persona a Torino, non è che non ho mai avuto problemi, anche se i problemi molte volte se li ha creati lui, sempre sbagliando persona, ma comunque non me ne frega niente. Parlo di portanti, che io non me ne frega, se voglio mettere portanti uno non ci parla qua a Sassari, secondo me non me ne frega niente, perciò a disturbare a lui, può parlare quanto vuole, perché se ne metto io, lui con un piede a parlare qua non ci parla, ma neanche si attacca, perché se attacca lui le attacco pure io, non ci parla lo stesso. Stai sbagliando il numero, comunque stai sbagliando, e tu lo sai bene, tu lo sai bene, te faccio io, Sassari è morto, te faccio io. È già agganciato. Un corso con Franco, California. E basta, non puoi parlare con nessun altro. Capito mia. Rispetta le regole, la gente che non ti cerca. Perché se aggancio io. Faccio Franco. Non parla, aspetta. Il tuo è il numero uno. Aspetta che riprendo io, aspetta. Vabbè, questo lo dici tu. Quando vuoi provare, io con 5 watt e tu con 1000, ci stai. Guarda, guarda, davanti all'altro lo dico, sei tu, proprio deve essere roba tranquilla, se tu ce la fai a parlare con Gio Maria, io con 5 watt, io ti metto la portante, tu attacchi anche 2000, se tu ce la fai a passarmi, cazzo, ne stacco il baracchino, ci stai. Ma io guarda, non ci posso neanche scommettere perché non sei un tipo, un CP da competere con mia, capito? Perché io ti supero, anche io con tiri che stai facendo le prove con coso, con un watt e mezzo che stai andando a parlare con Alghero, io ti dico, io che il mondo non lo usi, e tu sei a Sassari. Io non ti voglio parlare con nessuno. Ne a te è il numero uno. Ah, beh, anche mi puoi schiacciare, ma è veramente meglio Alghero. Sto dicendo qua, a Sassari, tu non fai proprio niente. Dai, attaccare il watt. Qua a Sassari non mi fai io con 5 watt, esco con 10 watt. Tu mi fai attaccare pure 2000. Tu consumi luce, io no, io parlo tranquillamente. A meno che i segnali che io sto ricevendo sono bassi, allora sì, me li copri, altrimenti no, ma a me tu non ce la fa a coprirmi, ma neanche se ne metti 3000, non solo di 2000, 3000, poi si è arrabbiato per cosa, io il controllo te l'ho dato, ti ripeto, noi ci siamo spostati di canale perché Franco mi doveva dire roba, per non parlarvi sopra, cioè, poi ancora peggio la situazione sarebbe stata, ci siamo spostati di canale. E mi stava dicendo cosa per domani per andare a pescare. Poi se tu ci sei occupato con qualcuno, non te la puoi prendere con tutti. Ho capito. Vabbè, fai come vuoi allora. Tu con un watt e mezzo, io come sono qua. E la te non voglio parlare con nessuno. Fate chi la devi mettere a me. E a te, e a Sassari non parla nessuno. A Sassari. Il paro di Sassari contorni, Sassari non parla con nessuno, te lo dico io. Vabbè, c'è in casa dove va nuda, comunque c'è problema. ti passa, non c'è problema. Vuol dire quando tu parlerai con gli amici tuoi di Sassa, che mi intrometto io, poi vediamo chi passa, io tu. Guarda, don Luca. Tu è corto, la rapidità. È inutile che tu mi dici, sono padre con chi parli. Dove si andata? Luca, non è serata, di capito, non è serata, dai. Buonanotte e buon tutto Gigi, cari ascolti. scappa. Ciao Claudio, ciao Teresa, ciao Luca, chi era, Pierpaolo mi sembra che c'era, ciao Tonino, sempre se mi ascolti, buonanotte Tonino, sto andando a fare la nanna, Ma io ti ascolto, ascolto a tutti, non ho senza problemi. Io vorrei sapere solo un coso, io ho fatto una domanda a Claudio, il re di CP, il re, radioamatore, no, non mi ha dato risposta. Poi mi hanno soframodulato, vedete, cosa vuoi ti dica? Non c'è nessun problema, secondo il mio punto di vista, io stavo ascoltando, non è successo niente. Chi si è spostato? Si è spostato. E chi è rimasto? Nel canale è rimasto nel canale. Il tegato lì a Putin non li feo. Chi è che si è sposato? Io chi? Sabato prossimo. E via, grazie a te. Ma sei? Cosa, Michele? Adesso me la metto io la portante a lui, adesso mi avete rotto le scatole. Fate la bravi, stavo parlando a Tonino, cazzo, perché vi mettete a sovramodulare? Io non ho capito. Uno alla volta, uno alla volta. Possiamo verificare qualche cosuccia, magari che tra me e te ti interessa parecchio, senza nessuna performance, capito Claudio? Perfetto, d'accordissimo Tonino, non ci sono problemi. Volevo fare un interrogativo a quello che si è sposato, a quello che sta chiudendo. Volevo sapere se eri morto, se eri vivo o se sei risuscitato. Tre domande sono. Se mi vuoi rispondere, mi rispondi. Ti mi hai detto quattro volte che passavi a portarmi con la radio per la PRS e non mi sei ancora passato. Va bene. Già chiuso, va bene, ok, d'accordo Tonino, va bene, adesso io vi lascio un attimino di bianco, fate l'abbraccio, ciao a Luigi Vulcano, buonasera, ben sentito, ciao anche a chi ha chiuso, il microfono aspetta Pierpaolo, avanti Pierpaolo, cambio. No, io avevo chiesto poco fa, se stavo dicendo a me. Non ho sentito con chi ce l'aveva, non ho sentito. Una cosa è certa che a questi livelli non si può continuare perché non va bene così. Cerchiamo di darci una calmata e basta. Ok, allora Franco riprendi tu, dai. Appagappa, vabbè dai. Non è successo niente, Claudio, non è successo niente. Poi non si è trattato perché non gli ha dato il controllo, tutto lì, dai, tutto lì. Io purtroppo non gliel'ho potuto dare perché nel momento che lui magari ha chiesto il controllo io non ero in radio. E sono andato a fare le panine, cucina, tutto lì. Poi non lo so se l'ha chiesto a Luca, Luca poi gli aveva dato il controllo, poi non lo so se stava che aveva altri controlli. Comunque tu lì, controllo per te, 59 più 25 è 4, sì. Va bene, c'è solo. Saluto anche a Gigino, ciao Luigi, buonanotte, buon tutto, ci sentiamo domani, K. Il microfono rilanciamo a Tonino, vai Luigi. Ma io guarda, non è che chiedo controlli a nessuno perché poco mi interessano i controlli. Però una volta che entro, in casa che poi scartano a me, quello che mi dà fastidio, capito? Allora lì comincia il coso e viene a. Allora via, bombardo, perché c'è la possibilità di bombardare. Vabbè Tony, non ne vale la pena, tu dici certe volte per queste cazzate qua, dai. Tanto, lo sai com'è la 27, lo sai meglio di me, anzi forse com'è, che funziona così qua. Cazzo, ma io guarda, direi con una cosa, la 27 magari, diciamo, è solo queste 40 canali che ci sono stati lì. Io, tante volte mi sono permesso, con un codice abusivo, a parlare sui 40 metri. È che meglio modulare è che non riesco a prendermi il patentino, però modulare sui 40 metri, sui 45 metri è sempre meglio, più rispettabile. Ecco scende, e se rompe il madonino? Non è che te lo dico perché non sono un radioamatore, però io quando accendo l'altro apparecchio che ho, per quanto intervengo e che li ascolto, che mi arrivano tutti bene qua, oltretutto che a me me lo permette anche pure l'antenna. Perché non c'è bisogno di intervenire a cosa, a propagazione o roba del genere. Quando mi sento meglio, forse chiari, mi fanno entrare. Livorno, Venezia, Trieste, Torino, Milano, Aquila Bianca da Roma, se lo senti magari che tu magari sei per Vermentino. Claudio, se senti Aquila Bianca da Roma, salutamelo tanto. Aquila Bianca da Roma, e in questo periodo non sto trasmettendo neanche io il mondo amatoriale, che no, non ne ho voglia, non sto bene, non ne ho voglia, Tony. Se lo sento già te lo saluto, deve essere amico di Cosio, di Gianduia lì. Camarone, sei confermo, bravo. Amico di Gianduia è. Camarone. Allora già te lo saluto, già te lo saluto. La padre d'osmetro, già va bene. Avanti Luca, lo conosci a Gianduia tu? Tutti i meteo, K di Rosmetro, vabbè, facci sapere e così domani ci portiamo l'ombrello, oppure ci possiamo portare anche l'ombrellone e un fiasco di vino buono. Cappa del Rosme, Trottolino, Vermentino, Travaggiato, vai. Ma io da parte mia, poco c'ho per gli amici, c'è rosso, a porta sulle mani, non ci sono problemi. La nostra promessa che tu mi hai fatto è che intervenivi e non sei venuto mai a trovarmi. Non so cosa ti ho fatto. Da parte mia, da te non c'è niente, poi non so, per gli altri. Non c'è assolutamente nessun problema, te l'ho detto, salgo appena non sto bene. Non sto bene, Tonino, non sto bene. Sto male, sono messo male con la schiena e quindi non sto uscendo da nessuna parte. Non sto bevendo perché sto facendo la cura e quindi niente da fare. Appena mi rimetto, te l'ho detto, ti telefono, chigua e gua e mi cando in tombarella già. Guarda, io sono sempre contento quando uno degli amici mi cercano, sono sempre contento e sono sempre a casa, non vado da nessuna parte, sono un tipo che io lavoro la faccio, sono a casa, lavoro a casa e basta. Se possibile intervengo anche il sabato, come urgine che vado intervengo. Poi per gli altri oggi no, problemi non ne ho. Comunque da parte mia il sabato sono a casa, la domenica sono a casa, gli amici se mi vogliono cercare mi trovo, altrimenti pazienza, no. Claudio, non so che dirci perché certe volte rimane quanto un po' somministrato, a volte accendo la radio, non intervengo, e certe cose sento quello che altri mi dicono. Se mi dicono cose che magari a me non mi appartengono, certe volte portate roba del genere, sì. E alle volte si è anche intervenuto tu, e non è che no, non la sono portata io, ho fatto così, infatti c'è un piede lunga, non è molto portata, dico che sono io, poi non dico altro, mi difendo la mia potenza che ho. Intervengo ai miei problemi, accendo poche volte, che posso intervenire poi non posso fare altro. Io in questo momento chiudo, ti ringrazio Claudio per la tua generosità che hai avuto nella chiamata volta. Poi degli ADCB ti saluto lo stesso. Se noi possiamo fare qualche cosa, da parte mia non c'è problema. Vado l'invito, vado a ricerca. Se possibile posso anche risparmiare qualche cosa. Da parte mia passo e chiudo, guardati da parte mia. Claudio a te e Marco. Pattoni, dai, ti saluto che sono al telefono, un abbraccio, stammi bene, già ci sentiamo con calma, vai Luca. Quali sono tra i tuoi? Telefono Franco. Agaba. Frate è chiaro sempre sì. Forte che c'è anche Torino, sono vado errando. Torino! Sono cazzato il Torino, Tonino. Arrabbiato, non abbiamo fatto niente. Come mai? Di sera? Sono a parlare, vi mettiamo la portante. Signori e signorine! Ladies and gentlemen, messieurs, messieurs.